spazio per la tenerezza, non a Sparta. Non c'è posto per la debolezza. Solo i duri e i forti possono definirsi spartani. Solo i duri, solo i forti. New. Ti ho dedicato un sacco di canzoni, ma questa è l'unica che avrei dovuto dedicarti. E quindi ascoltala bene, perché è l'ultima. Ripenso ai primi giorni con te, ero felice, poi hai rovinato tutto e te lo dice uno che non ha mai mollato e ti ha sempre perdonata, sempre. Ma stavolta non hai scusa, ormai ti ho smascherata, sì. Mi dici che non ti manco, che ti sei abituata, ma la verità è che ti hanno addomesticata. Già ormai non lotti più, costa troppa fatica, forse ti ha convinta quella troia della tua amica. E quindi ok, riprenditi i tuoi regali e le bugie, rivoglio solo la mia vita, tieni pure le cose mie. Goditi la solitudine perché non sarà breve, uno come me raro come ad agosto la neve. E adesso lasciami stare, devo cicatrizzare, devo rassegnarmi all'idea di sanguinare. Fatemi. Cosa ti aspetti che faccia? Se vedo la tua se la nostra faccia, storia è stata faccia, scritta per farne carta. Faccia. Se colpisci mi di nuovo, dai. Vuoi vedere come muoio? Guarda. Vuoi vedere il mio corpo distruggersi piano piano, per poi prendere ciò che respira dentro al nient'altro. L'ennesima pugnalata uscita dal cuore. Per provare tanto dolore, per te avresti dato gli dèi, ma forse non ho mai capito chi sei. Già. Per colpa tua ho sofferto tanto, mi ha spaccato dentro, ma finalmente ho realizzato ciò che sento dentro, sì. Tra i due hai perso tu quella debole. Io ho resistito a tutto questo, tu come un emo che ti piange addosso, fai la vittima, non reagisci, no. E poi me la metti in culo e ti inorgoglisci. Trovo un'altra a cui mentire, di addio le mie labbra, addio. Sparisci dalla mia vista, abracadabra. E grazie per avermi illuso e per avermi deluso, grazie. E le persone non le uso e con te ho chiuso. Basta. Ho fatto tutto ciò che potevo e anche di più, lo stavolta sai. È tutta colpa tua, arrivederci a mai più. Mai più. Ti ho aspettata così a lungo che ormai so che non tornerai. L'hai rifatto di nuovo e sono ancora nei guai. Stiamo trascinando il cadavere di un amore morto da tempo ormai. Non tornare più, resta dove stai. Forza, colpisci mi di nuovo, dai. Vuoi vedere come muoio? Guarda. Vuoi vedere il mio corpo distruggersi piano piano, per poi prendere ciò che respira dentro nient'altro. L'ennesima pugnalata uscita dal cuore. Non credevo di poter provare tanto dolore. Per te avresti dato gli dèi, ma forse non ho mai capito chi sei. La verità è che la gabbia toracica non protegge, no. E la scusa che ti senti confusa non regge. Vorrei che ci fosse un goldone anche per il cuore, sì. Perché la gente è più per questo che per lei che muore. Te l'ho detto già una volta ma non è servito, te lo dico di nuovo e alzo il terzo rito. Prima di dire ti amo pensaci 100 volte, sì. Le parole hanno un peso e tu le stravolte. E quante belle parole, quante belle parole, ma di certo non sarai la madre della mia prole. E ora non hai più scuse, ora stai zitta e basta. Mi hai già fatto troppo male, questa storia ormai guasta. E non pensare che non soffri, soffro come un cane. Ma questa storia è servita a farmi imparare che non ha senso amare chi non sa ricambiare. Non ha senso. E che se tu non ci tieni, non ha senso lottare. Forza, colpisci mi di nuovo, dai. Vuoi vedere come muoio? Guarda. Vuoi vedere il mio corpo distruggersi piano piano, per poi prendere ciò che respira dentro nient'altro. L'ennesima pugnalata uscita dal cuore. Provare tanto dolore, per te avresti dato gli dèi, ma forse non ho mai capito chi sei. Già. Quando è vero amore io rischio tutto, tutto. Tu invece hai recitato e mi hai lasciato solo al debutto. Cosa resta adesso? Cosa? Maceri e ricordi, mi dissi per sempre, sempre. Non ti ricordi, per te ho pianto fin troppo, ora me ne rendo conto. Già. E prima o poi il destino ti presenterà il conto. Ora continuo da solo con tutto il mondo contro. Forza. Non è una novità, non c'è mai nessuno sbaglio. Il vaffanculo stavolta non te lo toglie vaffanculo. Nessuno. Tu per me eri tutto, per te io ero nessuno. Niente. E anche se dici il contrario, tu mi hai preso in giro, ma il masochismo limite, non sono un fakiro, no. E quindi vattene, lasciami proseguire da solo. Sarai l'ennesima nave che salpa da questo molo, sì. Io rimarrò qui a piangere un altro mare e a maledirti per quanto adesso fa male. Per quanto adesso fa male. Per quanto adesso fa male. quanto adesso fa male. Fa male. Ehi.